su te togli importanti servi. Qualche nota, un segreto, a me affidarli dei. A te, all'intimo del re. Sospetti tu di me, di me, di me. Sospetti di me. No, no, no, il mio cuore c'è la speranza. Questo cuore che sì, amò, fate più da me, non so. Impari di ogni finanza. Sì, questi fagli importanti a te. Carlo, tu puoi.